Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava «Non fate malagrazie!». Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava «Non leccate i piatti! Non fate sbrodeghezzi! Non fate potacci!». Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni che non poteva soffrire. La grande scrittrice Natalia Ginzburg, nel suo delizioso romanzo autobiografico Lessico familiare, con il quale vince il prestigioso premio Strega nel 1963, descrive dall'interno la vita quotidiana della sua famiglia, dominata dalla figura del padre. Il libro è la cronaca ironico-affettuosa della famiglia dagli anni 20 ai primi anni 50, attraverso abitudini, comportamenti e soprattutto la comunicazione linguistica, da cui deriva il titolo. In particolare, la scrittrice descrive in maniera affettuosa e divertita la figura burbera e brontolona, ma anche estremamente divertente e amorevole, del padre. Questo indimenticabile quanto lieve ritratto privato ci consente di conoscere il lato umano, spesso divertente, in alcuni casi perfino maniacale, di un uomo che rappresenta nel panorama della scienza italiana e mondiale un importantissimo punto di riferimento. Il padre di Natalia Ginzburg è infatti Giuseppe Levi. Giuseppe Levi. Oggi a Destini Incrociati vogliamo raccontarvi la sua storia e quella di un incontro tra lui e una sua allieva che cambia per sempre il corso della vita di moltissime persone. La nostra vicenda inizia nel 1872 a Trieste. Soffia una bora veloce ma non particolarmente fredda a Trieste quel 14 ottobre del 1872, quando Michele Levi riceve la bella notizia. Sua moglie ha appena partorito un magnifico maschietto. Michele è molto felice. Oltre alla grande gioia di essere diventato padre, pensa che la sua è una famiglia ebrea decisamente tradizionalista. Sono banchieri da molte generazioni e un figlio maschio che porti avanti gli affari di famiglia è proprio un'ottima cosa. Ma come spesso succede crescendo, Giuseppe non dimostra alcuna propensione per l'attività paterna e di famiglia. Lui vuole diventare un medico. Alla prematura morte del padre, tutta la famiglia Levi si trasferisce a Firenze da alcuni parenti ed è qui che Giuseppe fa la scelta della sua vita. Si iscrive alla facoltà di medicina, facoltà dove insegna anche un triestino come lui, l'anatomopatologo di fama mondiale Alessandro Lustig. Mentre assiste a una sua lezione di microbiologia, Giuseppe comprende che è la ricerca ad affascinarlo particolarmente. L'anatomia umana è un argomento intrigante, pieno di inesauribili scoperte, e lui intende dedicare tutti i suoi sforzi in questo campo. Fin dai tempi in cui ero studente, non ero particolarmente interessato all'attività clinica. Mi intrigava di più lo studio delle caratteristiche morfologiche e delle proprietà biologiche delle cellule nervose. Non ho il carattere adatto a stare a contatto con i pazienti. Sono troppo burbero e insofferente. Preferisco stare in laboratorio, in mezzo ai miei vetrini. Giuseppe si laurea molto presto, ha solo 23 anni, e la sua scelta successiva è coerente con le sue inclinazioni. Si impiega subito nel locale Istituto di Anatomia Umana, diretto dal grande scienziato Giulio Chiaruggi, dove focalizza la sua attenzione su specifici studi di istologia, la disciplina scientifica che analizza i tessuti vegetali e animali. Il suo interesse si specializza ancor più approfonditamente fin quando Giuseppe comprende in maniera chiara quale sarà l'occupazione della sua vita: l'istologia dei tessuti nervosi. Giuseppe Levi si sta convincendo che non c'è nulla nel corpo umano che lo affascini di più del sistema nervoso. La sua funzione fondamentale è di ricevere, trasmettere ed elaborare gli stimoli interni ed esterni del corpo, permettendo in definitiva a un organismo di relazionarsi con il proprio ambiente. Ma il tessuto nervoso è molto più di questo. È responsabile, tramite meccanismi ancora non del tutto chiari, delle funzioni psichiche e intellettive degli esseri umani, la memoria, la conoscenza e la coscienza stessa. Di una vera coscienza. È come se dovessimo riempire un vuoto profondo. E allora ci mettiamo dentro rimasugli di cattolicesimo, pezzetti di sociale, brandelli di antichi ideali, un po' di antirazzismo e qualche alberello qua e là. Giuseppe Levi, giovane medico ricercatore triestino trasferitosi a Firenze, decide di dedicare la sua vita alla ricerca, in particolare allo studio del sistema nervoso. Ma non è certo facile fare ricerca in un ambito così complesso. È infatti necessaria una sperimentazione reale e non teorica. Ed è proprio per fare questo che Giuseppe sta cercando un metodo che lo possa aiutare. Sono ancora anni in cui si può parlare tranquillamente di indagini pionieristiche. Giuseppe Levi sperimenta quella che viene chiamata la coltura in vitro. Lo studioso si accorge che le cellule tenute in vitro in determinate condizioni di sterilità e immerse in particolari sostanze mantengono molte caratteristiche presenti nell'organo originale. Questo gli permette di osservare in maniera scientifica i tessuti che compongono il sistema nervoso, quelle cellule che così tanto lo affascinano e al cui studio ha deciso di dedicare la sua esistenza. Giuseppe Levi è sicuramente un pioniere in questo tipo di ricerca, che oggi per noi è un fatto del tutto acquisito. Basti pensare agli studi per valutare gli effetti dei farmaci, oppure per la produzione dei vaccini, per non parlare della fecondazione in vitro, la cosiddetta fecondazione assistita. Il professor Claudio Manna, ginecologo e docente di fecondazione assistita presso la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia dell'Università di Tor Vergata a Roma, spiega in cosa consiste. Fecondazione in vitro. In questa tecnica gli spermatozoi verranno messi a contatto al di fuori del corpo con gli ovociti, che vengono prelevati dalle ovaie, e in condizioni di temperatura ambientale idonee potrà avvenire la fecondazione. Gli embrioni che si sono formati verranno trasferiti in utero con un tubicino di plastica. Se oggi questo tipo di indagini scientifiche e le conseguenti applicazioni sono divenute parte integrante della nostra vita e sono anche spesso al centro di diatribe di carattere etico e religioso, quando se ne interessa Giuseppe Levi, sono assolutamente innovative e sperimentali. Siamo solo agli inizi del Novecento e la ricerca medica è ancora del tutto empirica. Mentre si trova nel suo laboratorio di Firenze, circondato dalle sue apparecchiature, sarebbe facile per lui scoraggiarsi di fronte alle prime difficoltà o dar retta a quelli che lo criticano per i suoi metodi. Ma il carattere deciso di Levi, il suo essere anche piuttosto duro, burbero, come lo descrive la sua figlia Natalia Ginsburg nel libro Lessico familiare, lo rendono insensibile a qualsiasi influenza esterna. Giuseppe va avanti per la sua strada. Intanto prosegue con la sua carriera. Diventa professore universitario e si trasferisce prima a Napoli, poi a Sassari, infine a Palermo, dove all'attività della libera docenza alterna sempre quella di ricercatore. Ma mentre si trova con la moglie e i 5 figli in Sicilia, un fatto terribile interviene a bloccare la sua attività di medico. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale arriva a sconvolgere le vite di milioni di persone, non da ultima quella di Giuseppe Levi e della sua famiglia. Lui è un medico, non può starsene con le mani in mano. Si arruola volontario come ufficiale sanitario e viene inviato al fronte sul Carso, uno dei più duri di quella terribile guerra. Mentre è in viaggio col suo contingente, proprio verso la sua terra d'origine, sta pensando a quello che lo aspetta. In qualità di medico è sicuro che vedrà scenari terrificanti. Ma è un irredentista. I territori italiani ancora sotto il giogo dell'impero austro-ungarico devono essere liberati, costi quel che costi. Bollettino della vittoria. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. Il bollettino della vittoria letto il 4 novembre 1918 dal comandante supremo dell'esercito italiano Armando Diaz mette fine all'atroce conflitto durato quasi 4 anni. Come moltissimi altri combattenti, anche Giuseppe torna a casa a Palermo. È emozionato mentre riabbraccia la moglie Lidia e i suoi figli. Li trova cresciuti e nonostante il suo carattere scontroso e restio a mostrare i propri sentimenti, si commuove. Ora deve riprendere la vita e la sua occupazione di ricercatore. Il dopoguerra è duro, manca tutto, specialmente non ci sono i fondi per proseguire i suoi esperimenti e il morale è un po' a terra. Ma una lettera lo raggiunge a ridargli fiducia e speranze. Arriva da Torino. Egregio professor Giuseppe Levi, la presente per proporle l'incarico di direttore dell'Istituto di Anatomia Umana di Torino. La carica ha effetto immediato. In attesa di sue gentili notizie e di un riscontro speriamo positivo, porgiamo i nostri saluti più cordiali. Mentre legge quelle poche righe dell'Istituto di Anatomia Umana di Torino, Giuseppe Levi sente che la sua vita sta per cambiare per sempre. Si tratta di una sede prestigiosissima, nella città italiana forse più vivace e attiva in quel periodo storico, sotto il profilo della ricerca e dello sviluppo scientifico. È davvero contentissimo e non vede l'ora di partire. Stabilitosi nella nuova sede lavorativa, Giuseppe Levi dà un impulso molto importante alle sue ricerche, tanto che in pochi anni l'istituto diventa uno dei centri scientifici più rinomati, non solo in tutta l'Italia, ma anche fuori dai confini. Il professor Levi è molto orgoglioso di quello che lui e i suoi collaboratori stanno riuscendo a fare, ma purtroppo la ricerca richiede tempi lunghi e non dà risultati evidenti nel breve termine. Per questo servono continuamente fondi nuovi. Ma l'Italia del dopoguerra non ha grandi possibilità e sono pochi i finanziamenti che arrivano all'istituto. Ma è ancora una volta una lettera a ridare fiducia a Levi. Questa volta arriva da molto lontano, addirittura da New York. L'International Health Division della Fondazione Rockefeller ha il piacere di comunicare l'intenzione di finanziare le vostre ricerche, di cui c'è giunta voce, nell'ambito di un'intensa azione di deradicazione di alcune malattie infettive e per lo sviluppo della ricerca scientifica nel vostro paese. Firmato la direzione esecutiva per conto di John Davison Rockefeller. Giuseppe Levi non crede ai suoi occhi. Con il finanziamento della Fondazione Rockefeller, i suoi studi sul sistema nervoso potranno proseguire in maniera più celere ed efficace, portando di certo a ottimi risultati. Un medico ricercatore come lui non potrebbe desiderare di meglio, se non fosse di trovare nel tempo qualcuno a cui trasmettere tutte le sue conoscenze, un allievo ideale che possa un giorno proseguire i suoi studi. Ma anche questo sogno del professor Levi sta per trasformarsi in realtà. Keine Schüler zu sein, kein Meister zu kennen. Ihr blaues Blut, denn sie noch mit der Realität. Überwinde. So viel Schein, so viel sein. Apparenze realtà. Il professor Giuseppe Levi, ricercatore e direttore del prestigioso Istituto di Anatomia Umana di Torino, porta la ricerca italiana ad essere conosciuta in tutto il mondo, grazie soprattutto alla sua pionieristica sperimentazione in vitro, tanto da ricevere un importante finanziamento addirittura dalla Fondazione Rockefeller di New York. L'istituto diviene, sotto la sua direzione, un vero fiore all'occhiello della ricerca mondiale, attirando l'interesse di moltissimi giovani che si vogliono dedicare proprio a questo difficile settore della medicina. Mentre sta raccogliendo alcuni appunti alla fine di una lezione, Giuseppe Levi viene fermato da una studentessa della facoltà di medicina. È giovanissima, ha appena 20 anni, più o meno l'età di suo figlio più grande, ma una determinazione ferrea si legge nei suoi occhi. Vuole parlare con lui, gli chiede di poter collaborare alle sue ricerche sul sistema nervoso. Quando gli tende la mano per presentarsi, Giuseppe Levi ha la netta sensazione che quel nome non lo dimenticherà più. Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini. Benché decisamente giovane, Rita è una ragazza molto combattiva e ha dovuto faticare parecchio per arrivare fin lì. Nonostante sia nata in un ambiente molto colto, il padre è un ingegnere elettrotecnico con il pallino per la matematica, la madre è una valente pittrice, Rita riceve un'educazione molto rigida in stile vittoriano, dove i ruoli maschili e femminili sono ben distinti. Il padre ha deciso che lei, la sorella maggiore Anna e la sorella gemella Paola debbano diventare delle brave donne di casa e madri di famiglia. Non è il caso che vadano all'università. Una professione potrebbe di certo interferire con la loro vita familiare. La sorella Anna ricorderà quel periodo, peraltro felicissimo, della loro infanzia e giovinezza e le velleità di Rita. Rita si vedeva che avrebbe fatto qualcosa di importante. Quando ero adolescente, mi ero appassionata terribilmente ai libri della scrittrice svedese Selma Lagerlöf, che aveva vinto il Nobel per la letteratura proprio l'anno che erano nate Rita e Paola, nel 1909. Ne parlavo sempre con le mie sorelline, ma Paola non era particolarmente interessata. Rita invece fu infettata dal mio stesso virus e si appassionò talmente tanto che decise che anche lei sarebbe diventata una scrittrice famosa e avrebbe vinto il Nobel. Le cose poi sono andate in maniera leggermente diversa. Se le altre sorelle Levi Montalcini non hanno problemi a rispettare la volontà paterna, per Rita le cose sono ben diverse. Mentre tiene fra le mani il suo bel diploma di liceo, Rita sente chiaramente dentro di sé il richiamo verso lo studio. Lei all'università ci vuole andare assolutamente, altro che fare la casalinga. Non ci pensa nemmeno, non vuole sposarsi e fare figli come tutte le altre ragazze. Lei ha altre intenzioni. Non ha ancora proprio le idee chiare su quali studi intende intraprendere. Sono molti i suoi interessi: la letteratura, l'arte, ma anche la matematica che gli ha fatto amare suo padre. Poi avviene un fatto che rappresenta la svolta decisiva nelle sue scelte future. La dorata governante, la tata di famiglia, quella con la quale tutti i ragazzi di casa Levi Montalcini sono cresciuti, si ammala di cancro e nel giro di pochi mesi muore. Per l'intera famiglia si tratta di un lutto insopportabile e ciascuno lo esorcizza come riesce. La madre la ricorda in un ritratto e così fa anche Paola, che segue poi le orme materne divenendo una nota pittrice. Anna ci mette molto ad elaborare il lutto, ma colei che forse ne risente maggiormente è proprio Rita, che prende una decisione irrevocabile: diventerà un medico. Decisa a sfidare non solo il volere paterno, ma anche la società dell'epoca, che vuole la donna relegata al solo ruolo di moglie e madre, Rita anticipa una battaglia che la vede in prima linea tutta la vita e la porta a scrivere anche un libro, Le tue antenate, che racconta la vita e le gesta di 70 donne pioniere della scienza e della società, che la stessa scienziata descrive in una recente intervista. Dedicato particolarmente alle giovani donne, non sono a conoscenza di quanto hanno fatto, e la capacità intellettuale non è un monopolio del sesso maschile, ma è il caso tragico che il periodo epigenetico è totalmente differente. La donna è umiliata e offesa e impedita, l'uomo è privilegiato in tutti i sensi. Fortunatamente nei paesi ad alto sviluppo scientifico e tecnologico questa differenza si sta attenuando, se non del tutto cambiando. Nelle altre componenti del pianeta la donna è ancora umiliata, offesa e impedita. Rita è davanti a suo padre. L'uomo osserva quella figlia estremamente intelligente e altrettanto determinata. Sa già cosa intende chiedergli. Lo sa perché in casa se ne parla da tempo del fatto che vuole andare all'università. E poi la morte della cara tata ha fatto il resto. Rita ha deciso che vuole studiare medicina affinché malattie gravissime come quella che si è portata via uno dei suoi affetti più grandi possano essere debellate. E come potrebbe mai lui dirle di no? E ora Rita si trova di fronte a un altro uomo, burbero quanto suo padre, e che un po' suo padre potrebbe essere, Giuseppe Levi. Gli sta chiedendo di poter lavorare con lui perché ha seguito i suoi esperimenti. Sa che il professore studia il sistema nervoso, quello stesso che lei pure considera come la parte più interessante e affascinante di tutta l'anatomia umana. È talmente decisa e forte nelle sue convinzioni da mettercela davvero tutta per convincerlo. Ma sa che è solo una ragazza, una donna. E nel 1930 non è usuale che una donna si metta non solo a studiare medicina, ma a volere addirittura fare la ricercatrice. È pronta a contrattaccare qualsiasi obiezione il professor Levi possa farle, pronta a lottare con i denti e con le unghie per ottenere quella possibilità. E quando il professore, convinto dalla determinazione di quell'allieva, accetta di ospitarla nel suo istituto di ricerca senza alcuna obiezione, Rita rimane senza parole. Irresistible, but all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name. When it comes to me, you don't care. Destini incrociati. Destini incrociati vi racconta oggi l'incontro fra due scienziati che cambia non solo il corso delle loro vite, ma anche quello dell'intera umanità. Giuseppe Levi e Rita Levi Montalcini. I due studiosi si conoscono a Torino nel 1930. Giuseppe Levi è un professore universitario e direttore dell'Istituto di Anatomia Umana e Rita ha solo 20 anni. È una studentessa estremamente determinata. Ha sentito parlare degli esperimenti che Levi sta facendo già da tempo sulle cellule nervose, studi altamente pionieristici che si avvalgono della sperimentazione in vitro. La donna è certamente molto giovane, ma ha già sviluppato un interesse specifico nei confronti del sistema nervoso e chiede al professor Levi di poterlo affiancare nei suoi esperimenti. È così che Rita inizia la collaborazione con Levi assieme ad altri due studenti che un giorno faranno parlare di sé. Salvador Luria e Renato Dulbecco, entrambi insigniti del premio Nobel per la medicina rispettivamente nel 1969 e nel 1975. Rita è felicissima e un po' sorpresa della decisione di Levi. In fondo lei è solo una ragazza di 20 anni e quello non è un ambito normalmente riservato al gentil sesso. Ma il professor Levi è un anticonformista. A lui interessa poco che lei sia una donna. Purtroppo sono altre però le difficoltà che Rita deve affrontare di lì a breve. Si laurea a pieni voti nel 36, ma nel 38, a seguito della promulgazione delle leggi razziali fasciste che sanciscono il blocco delle carriere accademiche e professionali ai cittadini italiani non ariani, sia lei che il professor Levi, in quanto ebrei, si vedono costretti ad abbandonare le proprie ricerche. In una recente intervista la scienziata ricorda quel terribile momento. In quel campo, io in quel periodo ero una giovane donna, diciamo appassionata della ricerca, ha bloccato le mie possibilità di continuare perché come razza inferiore non potevo andare all'università. Rita è incredula. Si trova nel laboratorio dell'Università di Torino insieme al professor Levi e agli altri scienziati del suo entourage quando riceve la notizia che impone a tutti gli ebrei di abbandonare le proprie cariche. La sofferenza che le provoca questa ingiustizia è lancinante. Ha studiato tanto, ha sacrificato tutto, vita privata, affetti, la tranquillità di un'esistenza normale per il fuoco sacro che sente ardere dentro di sé, l'amore per quella ricerca e con la quale spera di poter aiutare a debellare malattie gravissime. E ora tutto questo deve finire semplicemente perché è considerata di una razza inferiore. Per fortuna Levi accorre in aiuto dei suoi collaboratori. Ha ricevuto un'offerta di asilo da parte dell'Istituto di Neurologia di Bruxelles. Tutto il gruppo di ricerca di Torino si può spostare in Belgio, dove per il momento almeno non sembra contare la religione dei ricercatori e la razza alla quale appartengono. Per Rita lasciare il proprio paese è un dolore immenso. Mentre sta preparando le valigie, sta pensando che mai avrebbe voluto lasciare l'Italia in quel modo, quasi come se si trattasse di una delinquente che fugge. Salutare la sua famiglia senza sapere quando e come rivedrà i suoi cari le costa davvero molto, e questo è un momento che non potrà mai dimenticare. Eppure la parentesi belga è destinata a durare ben poco. Nel maggio del 1940 i tedeschi invadono il Belgio e tutto il gruppo di Levi ritorna clandestinamente a Torino. Ho creato il mio laboratorio in camera da letto. Ho fatto quelle scoperte, quelle ricerche che molti decenni dopo mi avrebbero portato agli onori di Stoccolma per le scoperte fatte. Rita non molla. Le persecuzioni razziali non possono impedire alla scienza di fare il suo corso. Per questo allestisce un laboratorio domestico addirittura nella sua camera da letto. È qui che tenta di comprendere il ruolo dei fattori genetici e di quelli ambientali nella differenziazione dei centri nervosi. Ed è sempre qui che scopre il meccanismo della morte di intere popolazioni nervose nelle fasi iniziali del loro sviluppo. Fenomeno riconosciuto solo 3 decenni più tardi, nel 1972, e definito con il termine di apoptosi. I continui passaggi di informazioni, di approfondimento, di piccole scoperte quotidiane che Rita e il professor Levi si scambiano, pur se tra mille difficoltà dovute alla clandestinità con la quale devono agire, portano i loro studi molto avanti. Il loro è un continuo e incessante flusso di ricerca. Sembra quasi che i due scienziati si impegnino insieme nella ricostruzione di un difficilissimo puzzle al quale, giorno dopo giorno, aggiungono ciascuno una nuova tessera. Days bring them together, the pieces were quite difficult to distinguish from each other. They were tiny, and the clear blue sky went on forever. Clearly, the corners were an easy start. That was when everyone was still helping me out. Then it was time to fill in the frames. They thought I ought to have gotten over you. Giuseppe Levi e Rita Levi Montalcini si trovano nel loro laboratorio di fortuna. Stanno studiando alcuni embrioni di pollo attraverso i quali approfondiscono le ricerche sulle correlazioni nello sviluppo tra le varie parti del sistema nervoso e sullo sviluppo dei neuroni isolati da vari elementi del tessuto cerebrale e dell'embrione. Mentre controllano alcune colture in vitro, hanno la sensazione fortissima che quello che stanno facendo li può portare a scoperte sensazionali. Purtroppo però la guerra con la sua follia non dà tregua ai due studiosi. Nel 1943 l'invasione dell'Italia da parte delle forze armate tedesche li costringe ad abbandonare il loro rifugio ormai pericoloso. Le loro strade si dividono per breve tempo. Mentre Giuseppe Levi cerca rifugio nella clandestinità nascondendosi a Ivrea, Rita segue tutta la sua famiglia a Firenze, dove i Levi e i Montalcini vivono in case separate presso alcuni amici. Ma ben presto Giuseppe Levi, braccato, raggiunge la moglie e i figli che si nascondono anche loro a Firenze, dove riprende i suoi esperimenti con Rita. In quel periodo ero molto amica di partigiani eroici, molto, e partecipavo con loro, non come attiva, perché mia madre e la mia famiglia non era in condizione e io non potevo abbandonarli, però ero tutti i giorni a contatto, quindi sapevo quanto capitava, sapevo degli orrori di Auschwitz, da amici che in parte sono rimasti ad Auschwitz. Personalmente, miracolosamente, siamo sfuggiti alla ricerca che hanno fatto di tutta la mia famiglia, vero? Quindi io ci siamo salvati con altro nome a Firenze. Fortunatamente la guerra giunge al suo termine e con essa le persecuzioni razziali. Giuseppe Levi e il suo gruppo di ricerca vengono reintegrati all'Istituto di Anatomia Umana di Torino, dove gli studi con Rita Levi Montalcini proseguono incessanti. Grazie ai risultati ottenuti durante il conflitto appena terminato, che vengono pubblicati in numerose riviste scientifiche e internazionali, il lavoro dei due ricercatori inizia ad essere conosciuto anche all'estero, dove trova apprezzamenti entusiasti. Mentre si trova nel laboratorio dell'istituto, Rita riceve una lettera che prelude a un importante cambiamento nella sua vita. La lettera arriva dagli Stati Uniti, precisamente da St. Louis, nel Missouri. Egregia professoressa Levi Montalcini, le ricerche che lei e il professor Levi avete svolto anche nel duro periodo del conflitto mondiale hanno portato a risultati sorprendenti. Questa mia, per proporle la cattedra di docente del corso di neurobiologia al Dipartimento di Zoologia della Washington University di St. Louis. Avrà a disposizione ogni possibile strumento per continuare i suoi esperimenti. Firmato, professor Victor Hamburger. Victor Hamburger, famosissimo scienziato tedesco e grande esperto di embriologia, colpito dalle ricerche di Rita Levi Montalcini, la invita nel Missouri, dove egli stesso sta effettuando esperimenti analoghi a quelli dei due scienziati torinesi. Rita è colpita dalla lettera di Hamburger. Sono anni che lo ammira e ne segue gli studi e per lei sarebbe una grandissima esperienza poter lavorare a stretto gomito con lui, ma al tempo stesso si sente tremendamente legata a Torino e al gruppo di lavoro del professor Levi. Ma è lo stesso professore che la toglie dall'imbarazzo. Mi raccomando, Rita, parti al più presto. Non perdiamo l'occasione di portare avanti le nostre ricerche là dove ci sono più fondi per farlo. Sono 17 anni che Rita e Giuseppe lavorano a stretto contatto. Ne hanno passate davvero tante insieme. Hanno rischiato la vita in più di una occasione. Hanno sofferto nelle lunghe attese obbligate dai loro esperimenti. Hanno gioito per i risultati eccellenti raggiunti. Salutarsi è ora forse il momento più difficile nella loro lunga amicizia e collaborazione. Ma se lei è ancora quella stessa ragazza riservata dei primi anni dell'università e fa fatica a esprimere la sua riconoscenza al suo professore, lui di certo è sempre quel burbero che tanto bene descrive la figlia Natalia Ginsburg. Il loro saluto è suggellato da una vigorosa stretta di mano. Quello che conta per entrambi è il bene della scienza. L'America del dopoguerra appare un paese pieno di risorse alla giovane scienziata. Scopre che sono in molti coloro che hanno seguito da lontano gli studi effettuati da lei e dal professor Levi. A St. Louis, Rita continua le sue ricerche embrionali sulle galline, portando sul terreno sperimentale il problema delle relazioni tra neurosviluppo e periferia organica. Tra la fine del 1950 e il 1951 delinea l'idea di un agente promotore della crescita nervosa, presentando presso la New York Academy of Sciences la sua tesi che cerca di spiegare la differenziazione dei neuroni e la crescita di fibre nervose. Gli esperimenti della neuroembriologia di quei tempi erano di vedere come la periferia agisca sui centri che innervano la periferia. La mia idea era che lasciavano, prima ancora di scoprire l'NGF, io ero sicura che dalla periferia qualcosa, un umore, veniva trasferito e che provocava l'aumento delle cellule che l'avrebbero innervato. Convinzione che mi ha portato fortunatamente alla scoperta che questo fattore era un fattore proteico, endogeno, che era rilasciato dai tessuti periferici e agiva sulle cellule nervose che innervavano la pelle. Continuando nelle analisi in vitro apprese anni prima da Giuseppe Levi, Rita, in collaborazione con un suo allievo, il biochimico Stanley Cohen, giunge all'isolamento di una frazione nucleoproteica tumorale e all'identificazione di tale sostanza presente in quantità ingente nel veleno dei serpenti e nella ghiandola salivare dei topi. Una proteina che viene sintetizzata da quasi tutti i tessuti, con cui la ricercatrice meglio accerta la molecola proteica tumorale, chiarificandone i meccanismi di crescita. Chiamata Nerve Growth Factor, NGF, essa si dimostra di fondamentale importanza per la comprensione della crescita delle cellule e svolge un ruolo significativo nella comprensione del cancro e di malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Si tratta di una scoperta che sovverte l'ipotesi dominante nel mondo scientifico che il sistema nervoso sia statico e rigidamente programmato dai geni. Una vera rivoluzione. revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Destini incrociati. Destini incrociati vi sta raccontando oggi la storia di un incontro che ha rivoluzionato la vita di tutti noi, quello tra Giuseppe Levi e Rita Levi Montalcini, due ricercatori scientifici che dedicano l'intera esistenza allo studio del sistema nervoso per cercare di comprendere i meccanismi di crescita delle cellule e sconfiggere così malattie terribili quali il cancro, l'Alzheimer e il Parkinson. Giuseppe Levi, direttore dell'Istituto di Anatomia Umana di Torino, incontra Rita quando lei ha solo 20 anni ed è una studentessa piena di entusiasmo. La loro collaborazione prosegue anche durante gli anni bui della Seconda Guerra Mondiale, funestata dalle persecuzioni razziali che vedono i due, entrambi ebrei, braccati e obbligati a fuggire e a nascondersi con le rispettive famiglie. Grazie agli studi condotti insieme al suo professore negli anni 50, mentre si trova negli Stati Uniti, Rita scopre il Nerve Growth Factor, NGF, il fattore di crescita dei nervi, che rivoluziona completamente il pensiero scientifico. Il sistema nervoso non è statico e rigidamente programmato da geni, come si è pensato fino a quel momento, ma è un organo in continua evoluzione. È inspiegabile l'intuito che dirige la ricerca. Viene a nostra insaputa, improvvisamente vediamo in una luce nuova quello che i dommi facevano vedere in altro punto di vista. Quindi non è prevedibile come funzionerà il risultato della ricerca. Si può tuttavia dire che non si deve mettere il lucchetto al cervello, vorrebbe dire il lucchetto a quello che abbiamo di più prezioso, la conoscenza di noi stessi. E Rita Levi Montalcini di sicuro il lucchetto al suo cervello non lo mette, anzi, continua imperterrita nelle sue ricerche, nei suoi esperimenti, che la portano a dividersi fra gli Stati Uniti e l'Italia, il suo paese che lei in realtà non abbandona mai. Fonda infatti un gruppo di ricerche italiano e dal 1961 al 1969 dirige il Centro di Ricerche di Neurobiologia creato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'Istituto di Biologia della Washington University, e dal 1969 al 1979 riveste la carica di direttrice del Laboratorio di Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il suo legame con l'Italia è infatti indubbio, e soprattutto lo è quello con il suo carissimo professore, Giuseppe Levi, e con lui che in ogni occasione Rita si confronta sempre, in qualsiasi scelta della sua vita professionale. E quando nel 1965 Levi si ammala di cancro e muore nel giro di pochi mesi, Rita sente di avere perso veramente qualcuno di fondamentale nella sua vita. Mentre si trova nel suo laboratorio di St. Louis e riflette sulla perdita del professor Levi, non può non ricordare un'altra perdita che ha avuto per lei altrettanta importanza, quella della sua tata amatissima. E come allora la sua scelta di dedicarsi alla medicina le risulta naturale, così oggi sente fortemente la riconferma di quella sua scelta. Le cariche e i riconoscimenti che Rita Levi Montalcini colleziona nella sua lunga esistenza non si contano ed è impossibile citarli tutti. È presidentessa dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, ambasciatrice della FAO, membro dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia Nazionale delle Scienze, unica donna ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze, membro della National Academy of Science statunitense e della Royal Society e senatrice a vita. Ma certamente il massimo riconoscimento è quello che le viene attribuito nel 1986. Carlo Gustavo XVI di Svezia ha consegnato i premi Nobel 1986 a 10 esponenti del mondo scientifico e culturale, fra i quali la professoressa italiana Rita Levi Montalcini, premiata per la scoperta del fattore di crescita delle cellule nervose. Il sovrano svedese era accompagnato dalla consorte Silvia. La cerimonia è stata inaugurata dal presidente della Fondazione Nobel, professor Sune Bergström, per la medicina Rita Levi-Montalcini e lo scienziato americano dello stesso campo neurologico Stanley Cohen. La motivazione del premio recita: la scoperta dell'NGF all'inizio degli anni 50 è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. In precedenza i neurobiologi non avevano idea di quali processi intervenissero nella corretta innervazione degli organi e tessuti dell'organismo. Mentre legge la lettera con la motivazione del comitato del Nobel, Rita è felicissima. E due sono i pensieri che ha immediatamente. Uno corre al suo vecchio professore Giuseppe Levi, senza il quale non avrebbe mai potuto giungere a risultati simili. L'altro, con un guizzo di vanità tutta femminile, va alla scelta difficile del vestito che indosserà. Certamente il professore Giuseppe Levi avrebbe avuto di che essere fiero. La sua classe di studenti dell'Istituto di Anatomia Umana di Torino dà vita a ben tre premi Nobel per la medicina: Dulbecco, Luria e Rita Levi-Montalcini, un record probabilmente unico. Esempio di grande apertura mentale, di straordinaria capacità a non fermarsi entro confini precostituiti della conoscenza, Rita Levi-Montalcini dimostra ancora oggi, anche se ultracentenaria, una grande attenzione alle problematiche attuali e a come la ricerca scientifica possa intervenire per aiutare gli esseri umani non soltanto sotto il profilo strettamente medico, ma anche sotto quello relazionale e sociale. Un complice controllo del nostro modo d'agire alla neocorteccia cognitiva, non al sistema nostro come sistema limbico che è emotivo. Le tragedie che possono portare all'estinzione della nostra specie derivano che a volte particolarmente prende il controllo del nostro comportamento la componente emotiva. La parte più antica del cervello, che è quella emotiva, detta il lobo limbico, che ha salvato l'Homo sapiens quando è sceso dagli alberi. Questa componente è pericolosa, perché la componente emotiva del cervello io la ritengo colpevole di tutto quanto di tragico capita attorno a noi. Non è la componente cognitiva neocorticale, ma è la componente emotiva del nostro cervello, che è molto più antica, che risale, come dicevo, alla discesa dell'Australopiteco dagli alberi e che ha continuato ad agire e dirigere parte delle nostre attività, che non sono sempre, diciamo, di carattere cognitivo, ma sono anche emotive. Questo è quello che noi speriamo.